La regionalizzazione del sistema dell'istruzione è una delle grandi vittorie che la Lega Nord sta portando a casa in questi mesi, un po' nel silenzio generale. Una vittoria che sta portando a casa sulla base di alcuni procedimenti di riforma della pubblica amministrazione che erano stati avviati da anni e già dai governi di centrosinistra. Il Veneto ha firmato un protocollo d'intesa ad ottobre con il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca per iniziare ad accogliere come ente regione alcune competenze che erano dello Stato in materia di istruzione. Lo sta portando a casa la Lega per prima in quanto guida della regione Veneto, ma questo procedimento verrà portato avanti poi dalla regione Lombardia e anch'essa a guida Lega e dalla regione Emilia Romagna a guida invece democratica, segno di un progetto che sostanzialmente è abbastanza condiviso. Rientra in quel passaggio che è dell'autonomia differenziata in cui per l'appunto le regioni iniziano a prendere alcune delle competenze dello Stato, in questo caso quelle dell'istruzione. Le competenze in materia sanitaria sono già passate da anni e già ne possiamo vedere i risultati di questo passaggio. Comunque sono delle vittorie non solo simboliche che la Lega porta a casa sulla base di quelle che erano state la riforma del titolo quinto della Costituzione, quindi quella che prevede e regola i rapporti tra Stato e Regioni, la legge Bassanini che era la legge che prevedeva l'autonomia scolastica, che puntava a costruire una maggiore coesione fra il sistema scuola e le comunità territoriali, che però di fatto vanno in direzione di quel federalismo al quale la Lega in fondo non ha mai rinunciato. Una questione abbastanza importante perché si tratta di prendere delle competenze nella definizione dei piani di studi, quindi legandoli alle esigenze territoriali, e questo molto forte per quello che riguarda il settore dell'istruzione professionale, quindi con un maggiore dialogo previsto con le imprese, ma anche una gestione diretta da parte del personale scolastico, quindi degli insegnanti, dei bidelli, del personale tecnico amministrativo in generale. Questo in particolare che tipi di conseguenze avrebbe? Penso da una parte proprio alla disparità magari che si potrebbe creare e intensificare a livello di istruzione appunto, e dall'altra alla disparità nelle assunzioni e poi del personale scolastico. Allora, la questione è molto complessa, nel senso che lo Stato e la Regione Veneto hanno firmato questo protocollo d'intesa senza che siano stati certificati ancora i livelli essenziali di prestazioni, ovvero sia la qualità, gli standard di servizio che dovrebbero essere maturati e dovrebbero essere riconosciuti al fine di stabilire quella che è la proposta didattica. In soldoni, non abbiamo ancora capito, perché ancora non sono stati decisi, quella che deve essere lo standard generale da raggiungere. Quindi c'è un problema che non essendo stabiliti questi standard si possono iniziare a creare i presupposti per una disparità istruzione erogata dalle regioni, per ora dallo Stato e in futuro da tutte le regioni, perché questo percorso che riguarda il Veneto dovrebbe via via riguardare tutte le regioni, che non essendo stati certificati possono aumentare quelle disparità fra nord e sud del paese che già di fatto esistono, quindi questo è un problema gigantesco. Dall'altro c'è questo problema altrettanto grosso del personale scolastico che la Lega reclama da sempre dover essere una gestione diretta della regione per limitare se non frenare del tutto a questo punto la mobilità interregionale, che rappresenta un problema gigantesco. Uno, perché noi abbiamo un contratto collettivo nazionale che a questo punto non sappiamo come dovrà essere regolato nel rapporto tra Stato e Regione. Due, perché consideriamo che comunque il personale scolastico è in buona parte di origine meridionale e con una fascia di una soglia d'età che rende ancora più complessi questi spostamenti, quindi la Regione vorrebbe imporre una presenza di almeno 5 anni sul territorio per poi avere la mobilità. Ma se uno è dipendente regionale, come potrebbe avere questa cosa? I livelli stipendiali faranno una differenza? Tutti i punti interrogativi a cui non si è data una risposta prima di avviare questo tipo di riforma. Quali sono state finora le reazioni da parte dei sindacati e se ci sono state anche da parte degli studenti? Nel senso, ci sono state molte manifestazioni studentesche nell'ultimo periodo, mi chiedevo per esempio se questo tema è stato incluso. Allora, da parte dei movimenti studenteschi ancora assistiamo a un generale silenzio, per quanto ci sia stata una ripresa della lotta che però si è interessata soprattutto su una questione molto forte come quella della sicurezza scolastica, quindi la sicurezza degli edifici e la tenuta delle strutture, che è un problema più diretto, diciamo. Purtroppo questo tipo di questioni come quella della regionalizzazione col cambiamento dei contratti per gli insegnanti insegnanti sono questioni che vengono accolte in maniera un po' tiepida da parte del mondo studentesco, ma anche del mondo dei genitori, perché non ne vedono la ricaduta immediata sulla vita degli studenti e sulla qualità dell'istruzione offerta. Un problema che si potrebbe aprire però, questo lo vedremo nel tempo, con la gestione da parte delle regioni dell'offerta formativa a livello professionale, che è la parte più corposa di questa riforma. Da parte dei sindacati se ne sta iniziando a parlare, c'è una grossa preoccupazione per questo tipo di percorso, soprattutto perché le regioni che dovrebbero avviare l'autonomia differenziata, ripetiamo Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, sono quelle regioni che assommano un maggior numero di nuove cattedre, quindi come nuove possibili assunzioni. Al momento però non abbiamo una legge sul nuovo reclutamento chiara, non è stato ancora chiarito quello che dovrebbe essere il contratto in queste regioni ad autonomia differenziata, per cui rimane un grosso punto interrogativo, che però è una forte preoccupazione in realtà.